La credenza nei vampiri era già diffusa nell'antico Egitto e tra gli assiro-babilonesi. Nelle tavole rinvenute dagli archeologi nella regione dell'antica Mesopotamia è descritto un pantheon di divinità tra le quali compare la figura dell'Ekhimu, lo spirito errante di un defunto che non è stato cremato. La caratteristica che accomuna l'Ekhimu con il vampiro moderno è il fatto che entrambi hanno vinto la morte ritornando dall'aldilà. Per questo motivo si parla di Revenant, colui che ritorna. Forse hanno pensato a questo gli archeologi quando, durante gli scavi dell'alta velocità dalle parti di Via de Carracci, nel 2004, hanno scoperto i resti di una necropoli dell'epoca imperiale romana, risalente al II secolo d.C. Ma cerchiamo di fare un po' di chiarezza in merito. La peculiarità di queste tombe è di essere anomale. Le modalità di sepoltura sono del tutto inedite per la cultura romana del tempo e, a dire la verità, per l'intero mondo occidentale. La costante è il posizionamento innaturale in cui sono stati trovati i corpi, l'intervento di mutilazioni e la presenza di chiodi. Spiega Maria Giovanna Belcastro, antropologa dell'Alma Mater. C'è un cadavere col chiodo infisso nell'apice del cranio, altri che hanno cavicchi piantati nell'occhio, in testa e nell'orecchio destro, altri ancora che sono stati mutilati col taglio dei piedi. In tutti i casi le lesioni sono riconducibili a interventi praticati dopo la morte, a scheletrizzazione avanzata. Pertanto, qualcuno deve aver intenzionalmente riaperto quelle tombe per riposizionare le ossa, trafiggerle con chiodi ed effettuare mutilazioni sugli scheletri. Questo tipo di procedure non erano diffuse presso gli antichi romani. Si sono diffuse presso alcune popolazioni dell'Est Europa molto tempo dopo la caduta dell'Impero Romano e avevano lo scopo di proteggersi da defunti ritenuti in grado di ritornare dopo la morte. La necropoli di Via de Carracci può dunque essere considerata una sorta di cimitero di vampiri? Questo non ci è dato di saperlo, ma gli antropologi sono convinti che vi siano sepolte persone che dovevano scontare una colpa anche nell'aldilà e che per qualche motivo se ne temeva il ritorno dalla morte. Sebbene ogni civiltà abbia un mito sui ritornanti e sull'argomento abbiano dibattuto generazioni di teologi e filosofi, non sappiamo se sia possibile sconfiggere la morte. Così come non siamo in grado di spiegare il fenomeno delle cosiddette conservazioni prodigiose. Un esempio? Una delle sante più famose d'Europa, Caterina la Nera. Le conservazioni prodigiose sono fenomeni per cui un corpo si mantiene in buono stato a distanza di molti anni dalla morte, senza interventi artificiali come ad esempio l'imbalsamazione. Proprio a Bologna, nella chiesa del Corpus Domini, al civico 21 di Via Tagliapietre, è possibile visitare una cripta in cui è conservato, in un'apposita teca, il corpo di Caterina de Vigri, vissuta più di 500 anni fa. Il suo corpo, se si eccettua il colore brunito della pelle, è ancora sorprendentemente intatto. Caterina de Vigri nacque nel 1413 ed era figlia di un noto giurista bolognese. A 9 anni si trasferì alla corte degli Este insieme alla famiglia. Furono quelli gli anni d'oro del Ducato di Ferrara, all'epoca in cui Niccolò III d'Este attirava in città artisti e letterati da ogni angolo d'Europa. Caterina diventò damigella di compagnia di Margherita d'Este. Studiò danza, musica e pittura. Perfezionò lo studio del latino e imparò a scrivere composizioni poetiche. Apprese persino l'arte della miniatura e della copiatura, dipingendo quadri a soggetto religioso, il più famoso dei quali è conservato nelle gallerie dell'Accademia di Venezia, Sant'Orsola e le Vergini. Il padre morì quando Caterina aveva 14 anni. La madre tornò a Bologna per risposarsi, mentre Caterina fece una scelta inaspettata, intraprendendo il cammino religioso. Si unì alla comunità agostiniana fondata da Lucia Mascheroni, legandosi alla regola di Santa Chiara d'Assisi. Di lei si racconta che, nonostante fosse abituata agli agi della corte, non rifiutava i compiti più umili. Con amore e con pronta obbedienza, offrendo alle consorelle una testimonianza luminosa. Nel 1456 la sua popolarità nell'ambito ecclesiastico e presso la popolazione era tale che le venne chiesto di fondare a Bologna un nuovo convento. Nacque così il monastero del Corpus Domini, di cui Caterina fu superiora. Secondo la leggenda, alla sua morte venne sepolta nel cortile del convento, semplicemente avvolta in un lenzuolo. Ma siccome per giorni dalla sua tomba proveniva un forte, dolce profumo di fiori, si decise di riesumarla per darle una sepoltura più degna. Le sorelle, tuttavia, trovarono il suo corpo incorrotto e privo di rigor mortis. Venne definito bianco, bello e pastoso come vivo. A contatto con l'aria, tuttavia, si dice che la pelle assunse il colore brunito che la caratterizza ancora oggi. Canonizzata da Papa Clemente XI nel 1712, Santa Caterina per i bolognesi semplicemente la Santa, siede da allora sul trono dorato in cui è possibile visitarla in giorni stabiliti. Le suore si prendono cura di lei, lavandola e cambiandole regolarmente l'abito a seconda delle ricorrenze. Si racconta che in queste occasioni Santa Caterina le aiuti muovendo delicatamente le articolazioni. Due notti nella città dei morti.